Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, tutti voi che ascoltate questa trasmissione sarete naturalmente appassionati di libri, altrimenti non sareste qui a sentire me. E allora vi voglio proporre oggi un libro sulla passione dei libri, una passione che può giungere ad estremi di maniacalità, di collezionismo quasi morboso. Di questo infatti parla il libro che vi presento adesso, che si intitola semplicemente Libri, il sottotitolo è Storie di passioni, manie e infami, e l'autore è un grande collezionista di libri, Giuseppe Marcenaro, la casa editrice Bruno Mondadori, 214 pagine, 17 euro. Marcenaro, dicevo, collezionista di libri, ma anche lui stesso scrittore, ma direi soprattutto lettore. Le due cose non sempre coincidono, perché lo stesso Marcenaro dice in questo libro che i collezionisti e gli appassionati di libri, molto spesso i libri che comprano e per i quali sono così appassionati, non li leggono nemmeno, anche quando questi sono oggetto di una passione che può rasentare appunto la morbosità. E di questo sentimento possessivo e compulsivo ci parla in questo suo libro, nel quale presenta le tante forme che la passione per i libri può assumere, per esempio la ricerca delle edizioni rare, delle prime edizioni, la scoperta di libri clandestini, ossia ritrovati nella propria stessa biblioteca, la differenza tra bibliofilia e bibliomania, il tutto attraverso storie esemplari di libri di prime edizioni e di autori. Le prime edizioni sono spesso qui riprodotte. Nel libro ci viene anche spesso ripresentata l'origine e l'insuccesso, ma in molti casi, di quelle opere. Libri capitali come Una stagione all'inferno, per esempio, di Rimbaud, furono pubblicati in poche copie a spese dell'autore e addirittura in questo caso abbandonate per poi essere miracolosamente ritrovate dopo diversi anni. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Giuseppe Marcenaro. Buongiorno. Giuseppe Marcenaro, partiamo dalla definizione che lei dà nella prima pagina del suo libro Dei libri. Lo definisce il libro un oggetto usuale al limite dell'assurdità con tuttavia una forte aura sacrale. Qui nella sua trattazione prevale naturalmente questo aspetto, l'aspetto della sacralità dell'oggetto libro. Assolutamente. Però di una sacralità quotidiana, direi. Il libro diventa sacro in quanto è un oggetto d'uso quotidiano e perciò assume questa forma di, come dire, di costanza nella nostra esistenza, di oggetto d'uso ma nello stesso tempo di oggetto di grande attenzione e di altezza, diciamo, religiosa quasi, ecco. Ecco, però questa sacralità naturalmente non l'assume per tutti i lettori, ci sono anche persone appassionate di lettura per il quale il libro rimane un oggetto d'uso e basta. Che certo cosa che scatta? No. Certo che no, per molti il libro è usa e getta, cioè basta, perché partono dal presupposto che il libro sia una di quelle cose che possa servire per imparare o per scoprirvi dentro delle storie. Per me è un'altra cosa. Per me, penso per un certo numero anche di persone, è quel qualche cosa che non va letto ma va risvegliato, e direi che una presenza che può essere anche letta tenendo il libro chiuso, per la sua proprio presenza, per il significato che ha di attraversatura dei secoli, eccetera. Le nuove diavolerie elettroniche e tecnologiche mettono a repentaglio sempre di più questo aspetto, tuttavia. Sì, la mettono a repentaglio, però io credo che il libro abbia una sua forza, una tale austerità d'oggetto che secondo me non riuscirà ad essere sconfitto dalle nuove tecnologie. Sì, l'iPad può dare l'illusione che tutto si possa vedere, tutto si possa leggere, ma credo che l'invenzione del libro, come diceva Umberto Eco una sera che eravamo a Milano, diceva in fondo è come il pettine, è come la forchetta, il libro hanno una loro forma definita, difficile poi da così da, da demolire, ecco, da mutare, ecco. A proposito di questo aspetto sacrale del libro, a un certo punto lei parla dell'ordine nelle biblioteche, l'ordine dei libri. E certo. Qui in queste pagine di nuovo questa questione assume quasi un valore liturgico. La fotografia dell'ordine di una libreria in qualche misura è anche la fotografia dell'ordine di una vita, e non a caso questo capitolo si intitola Introibo ad Altare Dei. Certo, beh, perché io sono convinto che una biblioteca che si rispetti, per quel che attiene un lettore, un amatore di libri, debba essere una sorta di sua autobiografia, se lui ha messo insieme la biblioteca, perché ogni libro è scelto secondo una partecipazione tale che poi nell'ordine dei libri, e qui entriamo nella più difficile delle scelte che si possano compiere, in quale ordine metterli, comunque la biblioteca diventa l'autobiografia del proprietario. A un certo punto lei affronta il tema della differenza in due capitoli differenti fra bibliofilia e bibliomania, e lo fa tra l'altro richiamando tanti personaggi, tra i quali Nicolas Gomez Davila e Giovanni Spadolini. Certo. Ecco, qual è la differenza fra queste due patologie? Intanto perché io non mi considero un bibliofilo, e i nostri amici dell'Aldus Club a questo punto non ridirebbero, o potrebbero anche cacciarmi per ignominia. Anch'io sono membro di questo dolizio. Io mi considero una persona che ha tanti libri che fanno parte della sua esistenza. Poi c'è la bibliomania, che era un po', se vogliamo, quella di Spadolini, e cioè l'onnivoro raccoglitore di qualsiasi forma stampata, senza una attenzione. L'importante è che ce ne fosse, ecco. Spadolini era appunto così, un bulimico anche nell'accumulo dei libri. E poi c'è il grande bibliofilo, che vuole soltanto dei pezzi che raccoglie come se fossero degli oggetti d'antiquariato, degli oggetti da collezionare, e a quel punto entra in un universo, la passione per il libro, che non mi interessa più, perché per me il libro è sì una cosa preziosa da possedere in prima edizione, se è possibile, con le dediche, con le chiose giuste, eccetera, ma deve essere anche rispettato per la sua funzione primaria, e cioè quello che contiene dal punto di vista letterario, filosofico, eccetera, eccetera. E allora concludo con un consiglio ai nostri ascoltatori che sono appassionati di libri, ma non necessariamente in forme patologiche o morbose. Come si devono accostare al libro? Facendosi guidare dal proprio istinto, come ho fatto io. Ho cominciato a guardare i dorsi, a scoprire dei nomi da ragazzo, e ho preso un'infezione che mi dura tuttora. E in realtà non c'è una legge che si possa trasferire, o una norma che si possa insegnare a chi voglia leggere o costruire una biblioteca. È un istinto esistenziale, e come tale bisogna lasciarsi andare a questa sorta di mistero che è il rapporto appunto tra il sé e la lettura. Bene, grazie a Giuseppe Marcenaro, autore di Libri. Buona domenica. Grazie, buona domenica a lei, e a presto. A presto, grazie mille. Il collezionismo dunque può diventare una mania, ce lo confermano due grandi collezionisti, Pierluigi Pizzi, un grande regista, e Guido Rossi, un famoso giurista, che hanno scritto a quattro mani il libro Quei maniaci chiamati collezionisti, pubblicato da Archinto. Sono 62 pagine, 10 euro. Qui si parla soprattutto di arte, ma Guido Rossi sottolinea il senso della sua passione per i libri, nei quali, scrive, si può trovare in certi casi tutta la civiltà e la cultura di un'epoca. I libri, aggiunge, danno spesso sensazioni complesse e diverse, la stampa, la rigatura, il testo, le immagini, le miniature, e poi li guardi, li tocchi, li annusi, li sfogli, li leggi. Insomma, non voglio cadere nella retorica, dice Guido Rossi, ma a volte l'emozione è fortissima. Il rapporto del lettore con il libro è esplorato nel libro Sei biblioteche, dell'autore serbo Zoran Živković, l'autore di un giallo a sfondo libresco di cui parlammo anche in questa trasmissione, l'ultimo libro. Il libro è pubblicato da Tea, 128 pagine, 9 euro, ed è tradotto da Jelena Mirković ed Elisabetta Boscolo-Guolo. Qui si parla di sei tipi di biblioteche, appunto: la biblioteca di casa, la biblioteca virtuale, la biblioteca notturna, quella infernale, quella minima e quella raffinata. Non si tratta di un saggio, ma di una raccolta di 6 storie, talora anche di taglio quasi degno di Hitchcock, sul rapporto con i libri e la lettura. Un rapporto che può diventare perfino una terapia all'inferno, dove si insegna che se si leggesse di più ci sarebbero, scrive l'autore, meno stimoli e tempo per le malvagità, e quindi il peccatore nel libro di Zipkovic viene condannato a leggere appunto per pentirsi del tempo che ha perduto nella sua vita a fare cattiverie. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo prima della lettura che può assumere vere e proprie forme di morbosità, anzi del collezionismo di libri. E allora soffermiamoci su questo tema, quello dei vizi, con alcuni libri su questo tema inesauribile. E cominciamo con L'ira, la passione furente, questo è il sottotitolo di questo libro di Remo Bodei, che compare nella collana del Mulino, dedicata appunto ai 7 peccati capitali. Ormai manca solo l'invidia, sono 142 pagine, 14 euro. Dunque, l'autore è un celebre filosofo che considera l'ira come la passione più importante studiata fin dall'antichità, aggiunge, lei si imputa infatti la perdita temporanea dei beni più preziosi, il lume della ragione e la capacità di autocontrollo. E oggi? Oggi, secondo Bodei, l'ira rischia di diventare, in simbiosi con l'odio o l'invidia, strumento burocraticamente forgiato e pubblicamente esibito dalla propaganda e dalla politica interna ed estera degli stati. Insomma, può diventare anche uno strumento di governo l'ira, controllata e pilotata dal potere, dalla politica. Il libro di Bodei è una sorta di excursus prospettico, genealogico, come scrive lui stesso, per studiare il rapporto dell'ira con la storia e con la filosofia, la storia della sua evoluzione, o meglio del modo in cui l'ira è stata percepita. Si parte in questo libro dall'ira forse più famosa, l'ira per antonomasia, quella che tutti noi abbiamo studiato, quella di Achille, che dà il là all'Iliade e alla letteratura occidentale. E allora fermiamoci proprio sull'Iliade, perché proprio con la parola ira si apre la nuova traduzione dell'Iliade che adesso vi voglio ricordare. Questa traduzione è quella di Daniele Ventre, pubblicata da Mesogea, 532 pagine, 27 euro. Che comincia appunto con queste parole: l'ira, tu celebra dea del figlio di Peleo Achille, devastatrice che inflisse agli Achei dolori infiniti, ed anzitempo nell'Ade molte anime forti d'eroi in abissò, delle spoglie in bandirazia per i cani e per gli uccelli banchetto. Vale proprio la pena tradurre di nuovo l'Iliade? Fra l'altro negli ultimi 20 anni ne sono uscite almeno altre 3 traduzioni. Perché no? Risponde Luigi Spina nella prefazione, ricordando lo scopo che si è posto questo nuovo traduttore, appunto Daniele Ventre, quello di tentare, per quanto possibile, aggiunge, spiega Spina, di restituire in qualche maniera al testo di partenza la parvenza di un'opera vivente. A proposito di classici, traduzioni e imprese improbe, vi segnalo la nuova versione italiana di un grande classico del Novecento, quello che noi abbiamo sempre chiamato fino adesso La montagna incantata di Thomas Mann, che invece nella nuova traduzione di Renata Colorni diventa La montagna magica. È l'edizione pubblicata da Mondadori, 1426 pagine, 60 euro. La traduttrice ci spiega nelle pagine iniziali la sua decisione coraggiosa di intervenire fin dal titolo dell'opera, un titolo che appunto è entrato a far parte del lessico comune anche di chi non ha mai letto questo grandioso capolavoro, questa autentica sintesi ideologica dei travagli del Novecento. E scrive Colorni: noi riteniamo che nel dare a Dea Zauberberg il titolo La montagna magica non è stata tradita l'intenzione letteraria dell'autore, che, come diceva Giuseppe Pontigia, è per un traduttore l'unica cosa davvero importante. E quindi buona lettura in questo grande capolavoro del Novecento. Ma torniamo ai nostri peccati e ai nostri vizi. E allora parliamo di adulterio. Questo è l'ultimo uscito di un'altra serie di volumi, sempre pubblicata dal Mulino, sui 10 comandamenti. Il titolo è appunto Non commettere adulterio. Su questo tema si esercitano Eva Cantarella, studiosa della classicità, e Paolo Ricca, che è un teologo valdese, e che offrono quindi nei loro scritti una riflessione filosofico-teologica su questo tema e un escursus storico di come questo peccato, se possiamo usare ancora questa parola, sia stato interpretato nei secoli. Ma appunto oggi l'adulterio è ancora un peccato, non è un anacronismo questa elencazione nei 10 comandamenti? Se lo chiede Ricca, e risponde con una notazione che vi propongo. Il senso più profondo del comandamento non è di proteggere il matrimonio e con esso la famiglia e quindi la società stessa. Questo fine indubbiamente c'è, ma non è l'unico e neppure il principale. Il senso ultimo del comandamento è di proteggere l'amore e più precisamente una particolare qualità dell'amore, che è la fedeltà. Che la fedeltà sia una qualità costitutiva dell'amore è un'esperienza comune che facciamo in tanti rapporti umani. Ed è anche un'esperienza della fede che facciamo conoscendo l'amore di Dio, la cui caratteristica principale, secondo la rivelazione biblica, è proprio di essere fedele. E l'amore di Dio manifesta la sua fedeltà istituendo dei patti. Amore, fedeltà, patto sono tre aspetti inseparabili dell'essere profondo di Dio. Amore significa essere e restare fedeli. Essere fedeli significa stabilire un patto. L'intimo nesso che esiste in Dio tra amore, fedeltà e patto esiste anche sulla terra nel rapporto coniugale. Amarsi tra uomo e donna significa stringere insieme un patto di fedeltà per realizzare un progetto comune. Vivere e crescere come coppia, costruire insieme una storia, piccola e grande a un tempo. Di Eva Cantarella ricordo che è uscito un volume su un tema a lei particolarmente caro, quello della rivisitazione dei grandi miti classici. Questo che vi propongo è Sopporta cuore, la scelta di Ulisse, pubblicato dalla Terza, 102 pagine, 10 euro. Qui torniamo dunque nel mondo omerico, di cui abbiamo parlato quando abbiamo ricordato l'Iliade, per scoprire il profilo che ci viene presentato come autenticamente rivoluzionario di Ulisse, l'esule di Itaca, che per Cantarella diventa l'eroe del nuovo mondo. Scrive infatti Cantarella, quello di Ulisse è il mondo che ha raggiunto le elaborazioni più avanzate in materia di libertà dell'agire umano, volontarietà, involontarietà dell'azione, colpa e responsabilità. È il modello alternativo del capo, l'individuo capace di autocontrollo che punisce secondo un nuovo criterio di giustizia. Con lui, conclude l'autrice, si profila un mondo nel quale alla base della responsabilità non sta il semplice rapporto causa-effetto. E l'ultimo vizio di cui voglio parlarvi è la vanità. Ma sarà proprio un vizio. Sentite queste righe. Tutto è vanità. E chi ne dubita? Ma non c'è chi non apprezzi una pur minima parte di questa vanità. Vorrei proprio sapere se esiste una mente normalmente ragionante, capace di spregiare l'arrosto solo perché si tratta di un bene transitorio. Certo, certo, è una vanità. Ma sarei lieto che i miei lettori, fossero anche 500.000, potessero gustarsene per tutta la vita una porzione abbondante. Rimpinziamoci di vanità e rallegriamoci che ci venga elargita. Così la pensava un grande scrittore inglese, William Thackeray, l'autore della Fiera delle Vanità, appunto. Tra l'altro l'ultima edizione di questo libro è stato pubblicato da Mondadori, 11 euro, 872 pagine, con la traduzione di Maura Ricci Miglietta. Questo brano di Thackeray è tratto dal libro che si intitola appunto Vanità di Mario Andrea Rigoni, pubblicato da Ragno, 110 pagine, 10 euro. La storia della vanità, esordisce l'autore, è la storia del mondo. La stessa creazione sarebbe un atto di suprema, insondabile vanità da parte del creatore. E su questo tema della vanità Rigoni presenta riflessioni e aforismi, dedicando particolare attenzione a Leopardi e alla deformazione estrema della vanità, quella rappresentata dallo snobismo, che secondo l'autore è degradata dalla coerenza calcolata e quasi ossessiva dei suoi comportamenti. Il fatto che lo snobismo diventi fatalmente un compito, un mestiere, un sistema, ossia tutto quello che lo snobismo appunto dovrebbe detestare di più. La ricerca della distinzione dell'eleganza, conclude, annulla la distinzione e distrugge l'eleganza. E il libro è concluso appunto da un'interessante antologia sul tema della vanità. Ultimi arrivi. Dilaga al cinema e alla televisione la moda dei vampiri e quindi agli appassionati del tema segnalo un grande classico, la trilogia di Varney il vampiro di Thomas Prescott Prest e James Malcolm Rymer. è pubblicata da Gargoyle, 516, 540, 596 pagine ciascuno dei volumi, e ciascuno costa 16 euro, la traduzione di Chiara Batteoni. Gli autori sono autori di piena epoca vittoriana che scrivevano romanzi d'appendice, quelli che venivano pagati praticamente a riga e che quindi venivano un po' sbrodolati per cercare di racimolare qualche sterlina in più. E entrambi ebbero una carriera letteraria molto sfortunata, ma realizzarono una delle più fortunate saghe vampiresche, quella appunto che viene adesso presentata in Italia. L'horror o le storie gotiche a sua volta poi è stato uno dei generi più frequentati anche al cinema, e una delle coppie più celebri che tra l'altro hanno dato vita a una celebre figura di vampiro è quella degli attori Peter Cushing e Christopher Lee, raccontati nella loro fortunata in questo caso carriera filmica da Franco Pezzini e Angelica Tintori nel libro I Dioscuri della Notte, pubblicato ancora da Gargoyle, 416 pagine, 16 euro. E a questo punto il confettino. Abbiamo fatto in questa seconda parte della puntata qualche incursione nel mondo classico, e allora ai lettori più grandicelli segnalo un'avventura che ci fa incontrare il generale cartaginese Annibale, quella raccontata nel libro di Gianna Carioli e vissuta da Lorenzo e Caterina. I protagonisti del libro, Il guerriero di Annibale, pubblicato da Mondadori, 94 pagine, costa 7,50 euro. E con questo ringrazio Margherita Aina in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica e appuntamento la settimana prossima.